Il punto di Stefano Folli. La notizia del fine settimana, a parte i due papi santi, il ritorno di un certo buon senso in tema di riforme. Sia chiaro, siamo in campagna elettorale e si vede, basti pensare all'imbarazzante insulto di Berlusconi alla Germania sui campi di concentramento. Ma abbiamo assistito anche all'avvio di una mediazione sulla riforma del Senato, che è importante per due motivi. Primo, perché segna forse la nascita di un nuovo Renzi, meno arrembante e più riflessivo, almeno per quanto riguarda le riforme. C'erano troppe contraddizioni nel progetto originario di trasformazione del Senato e oggi si cerca di correggerle, tenendo conto soprattutto delle opinioni diverse all'interno del PD e anche nel partito di Alfano, che è il secondo partner della maggioranza. Ma l'aspetto più interessante è che questa mediazione avviene con il concorso determinante e anzi l'iniziativa del Presidente della Repubblica. Sembrava che Renzi volesse confinare Napolitano a una funzione di semplice notabile. Viceversa, la tessitura della riforma passa dal Quirinale, che si conferma come baricentro, per ora insostituibile, dei nostri equilibri politici.